questo sarà quello definitivo. Quindi quello che dite è che siete quasi sicuri che il prossimo accesso che è stato annunciato sarà con la forza pubblica per eseguire lo sfratto? Quello che ci stanno dicendo, insomma, anche abbastanza chiaramente, è questo, che la prossima volta interverranno con i reparti. E la situazione nello specifico di questa famiglia, ripeto, morosa incolpevole, di una famiglia che ha fatto comunque la domanda per la morosità incolpevole, quello uscito, che ha fatto uscire ultimamente il comune di Roma, e che quindi ha tutte le caratteristiche per almeno usufruire della graduazione degli sfratti. Ovviamente al momento questa domanda è caduta nel vuoto, perché dalle istituzioni non c'è stata nessuna risposta. Anzi, la risposta delle istituzioni, considerato che parliamo di un nucleo familiare composto da 3 persone, ma tutte e 3 maggiorenni, è stata che comunque 3 maggiorenni possono tranquillamente dormire per strada. Marta, colgo l'occasione un po' di questa del racconto che ci hai fatto di questa mattina per chiederti appunto com'è un po' la situazione nel territorio che seguite. Abbiamo visto anche qualche giorno fa la reazione di alcuni abitanti alla, se non mi sbaglio, ad uno sfratto sempre nelle vostre zone, quindi ti chiederei un po' di raccontare. Raccontarci com'è la situazione in generale a Ostia e su quello appunto che potete conoscere voi rispetto alla zona, com'è il sentore da parte della le reazioni da parte della gente che vive lì. Allora, guarda, come sai, la realtà dello sportello di lotta per la casa di Ostia è una realtà molto giovane, esiste da meno di un anno.